Archiviate le contestazioni, il cavaliere torna alla carica. Ma è vero che questa valchiria va avanti 5 ore? Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai.